Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Warm Christmas greetings and best wishes for the new year from Andy from I Love Italy, exclusively on Radio Miami International. Radio Miami International, benvenuti a tutti a I Love Italy, il contenitore che parla italiano con il vostro Andy Mangiarotti. Siamo in onda su varie frequenze, questa è WRMI, Radio Miami International. Noi ringraziamo Jeff White e tutto il team di Radio Miami perché ci consente di essere in diretta qua con voi. Dicembre, quando arriva dicembre in Italia tutto diventa più magico con lo scoccare di questo mese. Si accendono le lucine colorate, si accendono i presepi, gli alberi di Natale e così via. Ne parliamo proprio ora qua a I Love Italy. Prima però vi ricordo i nostri contatti, se volete interagire con la trasmissione per inviarci dei rapporti di ricezione o semplicemente per mandarci dei saluti, vi ricordo che lo potete fare attraverso il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure sul sito del programma www.voiceofitaly.it. voiceofitaly.it. Poi c'è anche la mia mail andrea@mangiarotti.org. E se volete invece comunicare con la radio che ci ospita, la WRMI, vi rimando al sito di Radio Miami www.wrmi.net. Thank you. Warm Christmas greetings and best wishes for the new year from Andy from I Love Italy, exclusively on Radio Miami International. E questo è il nostro, i vari riferimenti per interagire con la nostra trasmissione, appunto, I Love Italy. E ora l'argomento del giorno, molto molto interessante, visto il mese che stiamo vivendo, non possiamo che parlare di Natale. Ben trovati a tutti, cari amici, io sono Andy Mangiarotti e oggi voglio portarvi in un viaggio molto speciale, un viaggio che profuma, come vi ho detto, di Natale, di famiglia, di ricordi, di storia. Parliamo del presepe italiano. Come ben sapete, cari amici, se ci sentite dagli Stati Uniti oppure in Europa, Australia e così via, voi siete abituati nel periodo di Natale a vedere Santa Claus, Babbo Natale, che porta tanti bei regali. Poi magari fate il vostro alberello colorato, ma in Italia oltre a Santa Claus, l'alberello colorato, c'è anche il presepe. È proprio una tradizione italiana. È un rito, un'emozione, un momento che si ripete ogni anno nelle case degli italiani, nelle chiese, nelle piazze e persino nei piccoli borghi. Una tradizione che arriva da lontano e continua ancora ad unire generazioni. Vediamo le origini del presepe. Il presepe pare sia nato a Greccio, un piccolo paesino, e sembra proprio che fu appunto San Francesco d'Assisi che lo introdusse. Era semplice presepe, praticamente era una rappresentazione della natività dal vivo, proprio con persone vere, reali, animali veri, una scena povera ma piena di umanità. E siamo per l'esattezza nel 1223. A Greccio, questo piccolo paesino. Viene appunto inventato, potremmo definirlo, da San Francesco d'Assisi, poi con gli anni ha avuto un'evoluzione dal Medioevo al Rinascimento, il presepe diventa una vera e propria arte, prima nelle chiese, poi nelle case con statuine scolpite in legno e terracotta. Il presepe si evolve insieme agli italiani, raccontando epoche, mestieri, caratteri e usanze. Però siamo nel Settecento che la magia del presepe prende vita. Nasce a Napoli uno dei presepi più famosi del mondo, il cosiddetto presepe napoletano, una piccola Napoli in miniatura, viva e colorata, con rappresentazione di venditori, pescatori, musicisti, osti, viandanti, nobili, mendicanti della Napoli del Settecento. Una folla di personaggi che circonda la Sacra Famiglia e racconta attraverso la natività la vita quotidiana di una città. Ancora oggi, soprattutto in questo periodo, a Napoli è decisamente piena di turisti, soprattutto nella via di San Gregorio Armeno, che è un punto proprio di riferimento mondiale, perché qua, pensate, ancora degli artigiani come un tempo creano delle statuine tradizionali con il legno, ma non solo, con altre, diciamo così, altri materiali, però principalmente il legno. E il presepe napoletano si è molto evoluto in questi ultimi anni. Potete vedere a fianco delle statuine tradizionali Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il bue, l'asinello, anche dei personaggi famosi. Questo è un modo un pochino bizzarro e simpatico, se volete, per rappresentare il presepe attuale, proprio con personaggi anche del mondo della politica, dello sport e così via. Quindi il presepe è un po', diciamo così, uno dei simboli dell'Italia, della mia nazione. In quasi tutte le case degli italiani in questo periodo viene preparato il presepe, un rito che non passa mai di moda. Si riaprono vecchie scatole di ricordi, si sistemano montagne di sughero, carte stagnole per fare i piccoli laghetti e i fiumi, e poi le lucine che fanno da contorno alla natività. È un momento che unisce ancora oggi tutta l'Italia, un gesto semplice, ma se volete allo stesso tempo pieno di memoria e di affetto. I presepi sono fatti un po' in tutte le regioni, per esempio in Puglia ci sono anche delle musiche proprio popolari che accompagnano la costruzione del presepe. In Sicilia ci sono le statuine in cera e in corallo, pensate che bello, piccole opere d'arte. Poi in Trentino Alto Adige ci sono i presepi scolpiti in legno, soprattutto in Val di Fassa e in Val Gardena. Ma non ci fermiamo qui, perché anche in Liguria ci sono dei presepi bellissimi in Ardesia e presepi anche meccanici. Poi ci sono altre regioni come l'Umbria, Lazio, la Basilicata, pensate Matera, c'è questo presepe vivente proprio nella terra dei Sassi. E poi c'è un presepe tutto speciale a Manarola, praticamente vicino alle Cinque Terre, è uno dei presepi più spettacolari al mondo, non solo in Italia, che merita veramente di essere citato. È il presepe luminoso di Manarola nelle Cinque Terre. Voi praticamente, se andate nelle Cinque Terre in Liguria sul mare, voi vedete questa collina proprio immensa con un presepe fatto in collina con del materiale riciclato. Ogni anno si accende questo presepe l'8 di dicembre fino alla fine di gennaio, quindi giorno dell'Immacolata, e poi fino alla fine di gennaio c'è questo bellissimo presepe che potete ammirare in Liguria, nelle Cinque Terre, nel piccolo paesino di Manarola. Cari amici e cari amiche, è stata una puntata bellissima, io ringrazio tutti voi per essere rimasti all'ascolto di I Love Italy, puntata speciale di dicembre. Io ringrazio Jeff White e tutto lo staff per avermi concesso l'opportunità di essere in diretta, a voi, ai vostri cari, i miei più sinceri e cordiali auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Auguroni anche al caro Jeff White, tanti cari auguri Jeff, buon anno e buon Natale per la nostra grandissima Double RMI. Ciao D'Andrea, ancora auguroni a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Merry Christmas and Happy New Year from Andy from I Love Italy, broadcasting only on WRMI Radio, Miami International, wishing all of you a joyful Christmas and a bright, wonderful New Year.